sondaggi danno la CDU, il partito di Angela Merkel, vincente con una percentuale tra il 36 e il 39% e SPD che segue con il 22-24. Immediatamente diciamo che la battaglia è per il terzo posto tra AfD, il partito populista di destra, i liberali e i verdi. E l'importanza di questo terzo posto si vedrà è quella delle future alleanze, ovvero ci sarà ancora una grossa coalizione tra SPD e CDU o ci sarà un'alleanza tripartita, la cosiddetta Giamaica, tra verdi, CDU e liberali? A questa domanda al momento è ancora un po' difficile rispondere, in quanto Merkel non si è esposta ufficialmente sulle future alleanze e l'unico che l'ha fatto è stato Horst Seehofer, ovvero il capo della CSU, la compagine bavarese di CDU, che ha detto che non vorrebbe di nuovo una grossa coalizione. Che cosa significa? Che molto probabilmente, non volendo una coalizione con SPD, la scelta ricadrà sui liberali e sui verdi. Ricordiamo, dal 2005 la Merkel è in carica e dal 2005 sempre con alleanze e coalizioni, anche perché effettivamente in Germania quasi sempre si governa per coalizioni. Questo che effetto ha avuto anche sull'SPD, per esempio, che è quasi sempre stata all'interno della coalizione, ma come minoranza, diciamo? Sì, ecco, i socialdemocratici con 4 anni di governo insieme a Merkel, diciamo che si sono un po' appiattiti, ma questo è un tema abbastanza dibattuto anche all'interno di SPD, perché l'ala più sinistra ritiene che non ci dovrà essere una coalizione con il partito di Merkel e dice 4 anni di governo ci hanno rovinato, ci hanno appiattito e non ne abbiamo guadagnato nulla. Dall'altro lato l'ala più centrista dice sì, ma se ci alleiamo con Merkel possiamo comunque ottenere dei posti di potere e comunque cercare di portare avanti un minimo il nostro programma. Il problema, a mio parere, nella campagna elettorale e in generale di SPD è che Schulz non è riuscito a portare avanti un messaggio, non è riuscito a far passare il proprio messaggio. Sì, è stato molto critico nei confronti del governo, della Merkel, ma sostanzialmente era un governo al quale Martin Schulz ha partecipato. E sempre sul tema della certezza, diciamo quasi data per scontata anche da tutti gli elettori tedeschi della rielezione della Merkel, che effetto ha questo anche sulla partecipazione elettorale e in generale sulla percezione di queste elezioni in Germania? Allora, secondo le statistiche la partecipazione elettorale sarà comunque in linea con gli anni passati. Al momento anche tra i votanti diciamo che solo il 4% non ha ancora un'idea chiara. C'è stato uno spostamento sicuramente, ma all'interno dei votanti, quindi ci sono dei partiti che hanno perso, ad esempio il CDU, diciamo un 3-4% a favore di AfD, ma comunque più o meno la percentuale dei votanti è all'incirca la stessa, perlomeno secondo i sondaggi. Poi sappiamo che i sondaggi non sono così affidabili. A proposito di AfD, sarebbe la prima volta in Parlamento per il partito di estrema destra. Questo quanto può cambiare lo scenario? Diciamo che lo scenario, a mio parere, è più una questione simbolica, ovvero per la prima volta dal 1950 un partito più a destra di CDU entra in Parlamento ed è un partito che non è semplicemente più a destra di CDU, ma è un partito che ultimamente con le uscite che sono state fatte dai propri candidati, ovvero Alexander Gauland e Alice Weidel, ha dimostrato di essere apertamente razzista e diciamo anche andando contro la Costituzione tedesca. Di conseguenza è molto diciamo un risultato simbolico che però fa capire che comunque nella società tedesca c'è un po' di malessere, piuttosto contenuto, in quanto l'AfD viene dato tra il 9 e il 12%, nonostante Alice Weidel dica che il partito arriverà al 20%. Ovviamente anche questo è un mistero sempre a causa dei sondaggi. Molti votanti spesso diciamo nascondono di votare per partiti che non sono socialmente accettati, di conseguenza il vero risultato si vedrà poi domenica pomeriggio dopo le 6. In ogni caso ecco, mi sembra più una cosa simbolica. Tra l'altro diciamo una tendenza che si inserisce bene anche nel contesto europeo, quella della crescita dei partiti di estrema destra. E a questo proposito un'ultima domanda: quali potrebbero essere diciamo gli effetti di queste elezioni in Germania anche sul contesto più ampio europeo? Allora, AfD sì, assolutamente si inserisce in questo discorso dei partiti populisti di destra in particolare, che in Europa stanno avendo insomma un discreto successo. Basti ricordare l'internazionale populista di Coblenza, dove parteciparono Frauke Petri di AfD, Salvini, Wilders, Le Pen. Ecco, diciamo che un buon risultato di SD potrebbe dire a tutto il resto, allo scenario populista europeo, che comunque i populisti ci sono, e ci sono anche, e la nazione che nell'immaginario collettivo europeo è una nazione che funziona, che ha accolto, e quindi potrebbe dare uno spunto per continuare questa lotta ideologica populista contro le elite, le cosiddette elite di Bruxelles, e contro l'immigrazione.